fa quello, se lo fai con l'altro, quello doppio, quello che fa, che si raccorda con un macchinario, si spinge con un macchinario, quello è il migliore che c'è, che stanno facendo. Mi sembra che tre strati insomma che ci abbia. E quello è il migliore che c'è, però quello costa un pacco, costano più i raccordi che stipiti del tubo. Dipende sempre dal materiale, se lo fai il rame, sicuramente il rame risparmi un pacco di soldi, però non è mai come quello là. Sì, c'è anche il tuo, c'è un coso, un... San Vecchio, erano 98. Ce ne sono apparecchi, E beh Mario. Gianni, l'8001, aspetta una scusa Robert, l'8001 lo conosci dall'Alan? No. Bellino, bello. Bello, bellino, no, non bello. E poi c'è, cioè, aspetta. Come l'hai visto l'8001? Cosa? Come l'hai visto l'8001? Qua questa rivista già. Poi c'è l'Alan 32. Poi c'è l'Alan 77099, poi c'è l'Alan 8001 plus, e praticamente si leva la... come può fare, si leva la mascherina qua? Sto occupando i gibi a casa, 10 euro l'ora. Ma mi tutti dai nomi, non mi fare a quello. No, te rubo l'antenna, è diverso. Vabbè, il tuo... non c'è più. Fuggi di sinne. Ah, mi lo vedi. Dove cavolo è? Ah, 48 plus. Bello, eh. Bello, bellino, eh. Basta questi M1, M2, M3, M4, M5 già. Gianni. Quell'Alan 68, Luca, è fatto per diversi mercati, mercato tedesco, russo, polacco, e cambiano qualche cosa come frequenze, come potenza, per quello che hanno, sono già predisposti per modificarli. No, vabbè, qua ci si trova 48 plus, omologato, 40 canali, AMFM, poi c'è Alan 48 plus D, omologazione FTZ. Poi, vabbè, così via, dai, omologazione Francia-Spagna, poi c'è Alan 48 plus, 400 canali in Sud America. Nella seconda del mercato di esportazione. E il Deplan della Midland, io, ce li ho tutti quanti con gli apparati, c'è anche il 298 pure. Capaglia, ma poi c'è la base, c'è un numero da due la base, Billy, Nella Midland. K. No, non lo conosco, bello, ma con frequenza diversa. Aspetta, te lo dico, beh, no, forse sì, forse no. Aspetta, lo dico il seguito. Sì, ho frequenzimetro, tutti e due ho frequenzimetro. Da base, boh, ma che modello è, come si chiama? C'è il 555 e il 560. Gaffa, gaffa. È bellino, allora l'altro ha praticamente due pomelli in primo. C'ha tanti pomelli, però c'ha due pomelli. Poi nell'altro c'è una tastiera. Con frequenza c'è anche gli strumenti. Gaffa, qua c'è Smitter, sicuramente c'è tutto, sì. Cordatore, sicuramente no, cordatore, la rosmetro, il wattmetro e tutto quello che c'è, lava. No, non lo conosco, mai visto. Non è stato che facesse apparati fissi la Mitra. Va da 25 a 28, mega, eh. Un attimo, andiamo, rispondo al telefono. Stazione base, lava. Ma ho trovato nel parcheggio già. No, Luca. Lui ha rientrato. E Mario che fine ha fatto? Sta mangiando sicuramente. Mi raccomando, c'è un'enciclopedia per cani. Cata, ogni 5 minuti ci telefonano qua. Enciclopedia, Moramento e Marazzurri. Ma te l'ho chiamato a casa o al cellulare? No, no, a casa me l'ho chiamato. Aspetta, ho un rompimento di casa tra gestori telefonici, abbonamenti a riviste, coso e non so cosa è. Adesso ho l'enciclopedia tre cani per il ragazzo. E tomati figlia della luce. Via. Sempre a vendere, la scarità. No, lo so, sono un rompimento di casa, mamma mia. Cosa me ne vuoi fare l'enciclopedia, va? La paga, pa. Ma è tutto su internet, cercate di fare qualche ricerca ai bambini, l'altro giorno la più grande è andata su internet e si è scaricato quello che gli interessava. Cosa ti devi spendere? Solo l'enciclopedia. Tua figlia? Tu, già è la placca autoale, la più grande. Ah, la cosa è computer? Sì, che è una piccolina, l'altra è una futinuta, la che ha 4 anni, ma anche Giorgia, la più grande. grado, la quando c'aveva 3 anni stava già giocando col computer. Non è così, bisogna. Ma si vede come la chitarra. Se non sia piccolo, poi una volta che sei grande. Sì, proprio di chitarra, io a Natale lei me l'ha sempre chiesta, ha detto fammi una regalata, ma a Natale gli ho regalato la chitarra. E io gli ho iniziato il corso di chitarra, 1 ora e mezzo gli ha tenuto, gli ha già insegnato gli accordi. Debo curibiare, guarda, se le piace impara, io stesso a me faccio la matita, anche qui quando devo essere subiamo in chitarra, si lendi, e poi lì facciamo questo tipo di toni, insomma lui ha suonato la chitarra elettrica, se vuoi disumendi ti assusti, è veramente bravo. E niente, poi aiutare, c'è proprio questa sala, e andiamo dentro così a questo di accordi. Io diciamo che non è per vantarmi, ma no, sono stato l'unico di tutti quelli che andavano a imparare bene, diciamo, bene. Ma no, io sì, il campanello so suonare, gli strumenti ne mi sarebbe piaciuto, ma non ho mai avuto la pazienza, non è per me. Mi sarebbe piaciuto tantissimo, perché la chitarra a me mi piace sentirla, fa, però proprio zero assoluto. E vabbè, strimpellare, no, poi parliamo di, come si chiama, di fare solista, insomma, un casotto. Ma mi voglio comprare quella spalla mancante, magari, quella è brava veramente, ma un amplificatore. Allora qualcosa riesce a fare, piano piano, un pezzo di un pezzo domani, qualcosa riesce a fare, ma con questa è un po' male. Già si trovano usati, io li ho visto 60, 70 euro, 80 euro, senza prendere roba di qualità eccezionale, le ho viste usate, due riviste quelle che leggo io, ce ne sono parecchie. La paga, ma voglio prendere quella Yamaha, quella mancante. Adesso mi dice tanto che iniziamo a conservare. Adesso vediamo. Poi secondo me va mi assillo qua in casa, perché è bello, fare solista è veramente bello. No, non si sa suonare, caspita, a me mi è sempre piaciuto, oltre alla chitarra mi sarebbe piaciuto suonare anche le tastiere, con queste elettroniche, queste belle che puoi fare tutti gli strumenti, solo non ho bisogno buono. No, non è che non bisogna buono, roba, non ti sei mai messo, io la verità, io ci vediamo per la chitarra, la sempre in misere, la prendevo giocando, poi alla fine... ho imparato tantissimi accordi, tante canzoni, per esempio magari ascolti una canzone, no? Ascolti gli accordi, più o meno ci vado vicino, dai. Ma tu hai un orecchio solo, non con la spartita? Ho un orecchio solo, già. Vabbè, piano piano, ti accordi più o meno, ti regoli, ascolti quello che magari sta suonando, ti avvicina al tuo accordo, poi trovi l'altro, l'altro ancora e alla fine ci arrivi. No, no, io non, diciamo mi sarebbe piaciuto, però il rispetto non è per me. Diciamo ci vuole un po' di pazienza e tempo per farlo. Mi sono stato in carcere, ti ho messo tra la dice tra Manuda, poi avrei imparato a suonare. Vabbè, io vabbè da piccolino, dai, da piccolino, 16 anni, 17 anni, fa 18 anni, avanti. Andavo in sede, così. Con la scusa, sono le chitarre, c'era sempre appoggiata lì dalle panchine, no? E da andavo a stare per là, ma così mi motivati, come per esempio lo prendi tutti, mi sta suonare che non so fare niente, si fa giù io. Poi questa cosa mi chiamava sempre di più e poi alla fine organizziamo, mi viene la sala. Un accordo domani e impara a suonarla, non è che... Ma ci vuole sempre qualcuno che ti insegna, sennò le buone luci, chi ti ha aiutato a te? Tony Santuru, carrozziere. Tony Santuru, tu non lo conosco. Gappa, carrozziere, insomma, era lavorato lì via sotto al ponte. No, non era conto suo, era sotto principale. Gappa, è bravo carrozziere, bravo, brinciatore lui, non carrozziere. Tu non ce l'ho presente. Guarda che c'è una mini adesso, piccolino, una mini mino è lui. Non lo conosco. Mattoni veramente bravo, la fa parlare la chitarra. Senti, gente che si attenta da ragazzino, poi, ma l'importante è che ci sia qualcuno che ti spieghi tutto quanto, i movimenti, eccetera, eccetera, così impari in fretta. Adesso a Giorgio, la mia figlia l'ho mandata da questo insegnante, a scuola glielo fanno, non si paga niente. un'ora e mezza alla settimana. Allora devi vedere, allora dici tutta contenta, ieri c'è messa. È una persona anziana che ha una vita che è fatissata. Quello sicuramente da piccolino, avrà studiato al conservatorio. No, ma Tortoni ha studiato, Ha studiato, come si è studiato. Però, veramente bravo. Bravo. Mi ha detto quando siamo arrivati, ha preso tutti i bambini, sono tutti i bambini piccoli, mi ha detto, adesso già ci vediamo, non vi preoccupate, in mezz'ora tutti stanno già facendo gli ascolti, tutti ridendo, ma non si dice, no, io come ti ho preso, è ritornata la bambina e stava già facendo i trimpelli. Da pagare, io gli facevo io, ma si lavo a casa, guarda, mi chiamo la maggiore, la Casa del Sole, la Maria, qua ti ammazzava, adesso le chiamano la sole, no? Cosa? Te un piano, dopo. No, io grazie a Dio già. Sono lì, no, proprio negato. Ma accompagnare. Sono con me un po' con mezzinaggio, ui. Adesso come va la città, la sola va. Ma vediamo se c'è ancora. Mario, ci sei? È Luca che non si lascia mai parlare. Allora, niente, ho ripreso io Mario, riprendi. Barrato, c'è il grandetto, il ricco, così, con Giulia. E niente, dai, mi è finita l'otto, mi sto salvando, non so come hanno fatto male, tanto per cambiare, ma è comunque come ha detto Luca, vabbè, vuoi fare da piccolo? Per qualunque cosa, o se no non impari più. Guarda Robè, non fare suonare, guarda la sarda a 12 corde. Vabbè, diciamo, quando fai suonare puoi già fai suonare. Io conosco gente che tu gli dai il mandolino, la chitarra, il violino. Una volta che fai suonare tutti gli strumenti. Beh, per forza. Comunque, veramente la chitarra è veramente uno strumento che a me piace, e sono qua a me. Aspetta, ogni tanto la prendo due accordi, tre accordi e via. Ma sei suonato? Sì, sono già. Chiamano bene per le esimiate. Ma sei suonato? Allora. Guarda, che c'è un solista che... La faccio andare la chitarra, Tutto riesco a farle dietro. Però deve essere uno che mi dia gli accordi... Il giro degli accordi, lo posso accompagnare tranquillamente. Marco, cosa devo dire adesso? Aspetta, non ti trovo, aspetta. Aspetta, non ti trovo. Prima di tutto te ne rubo la mossa dove va, quella per andare all'asilo. E la regalo a mia nipote, la regalo. Vai. Dove vado? E vabbè, tu vedrai, domani facciamo tra l'altro di più con la borsa. Vero, Marco, cosa gli dici tu? Perché ti vuoi rubare la borsa? Dillo. Vuoi rubare la borsa? E allora, ti rubo la borsa, mi la regalo alla figlia di Roberto. Magari sta, vedi che hai trovato pane per i tuoi denti, Luca? Se lo dici, mette l'auto con quel bambino. Ma se faccio indietro, signor Natalia, faccio indietro Marco. Faccio indietro. No, Natalia lo faccio indietro, vabbè. No, sì, sì, faccio indietro. Come si chiama la mia gattina, Marco? Maggiori. Thank you. Natali! Ma lo senti quel rumore? Dopo. Ma lo senti quel rumore? Come stai dicendo? Ehi. Adesso no. Poco fa quando ha parlato Mario si è sentito. Ah. Allora se parlo io si sente? Ah, mi giuro da te. Che la penna. Ma ce n'è il problema. Ho preso la tela sul cibo, si gioco. E fa quello lì. Ehi. È il telescopico. Ma che la taglia è sparito. No, che lo stavo chiamando. Tu la taglia non sento questo rumore. Boh, sparito. E chiedo che non ci sono morto. Ah, io ho già fatto le mani. Quello qua del paesello. Ah, aspetta, c'è un rumore, il figlio è fallito. No, però, a quanto ho sentito io? È andato a trovare Luigi. Cos'è? È andato a trovare Luigi, detto, sono io, vado un attimo, devo vedere una cosa. E a me, ma poi si è spostato sopra nel canale 40, io l'ho seguito, e ha detto a quello che stava parlando con lui che chiedeva perché c'erano problemi. Ah, buono, ho sentito lui. Sì, ma io gli avevo già tutti i baracchi in anticipo. Allora, baracchini, non si chiama baracchini, si chiama radio. No, tu sei bagliendi. Ricordatevi che i baracchini hanno il canale, non hanno la frequenza. Noi abbiamo il canale, questo è il canale 10, la frequenza ce l'hanno le apparecchiature amatoriali, capito? Ma è quello di vecchia generazione che aveva le frequenze, aveva il frequentimetro, che erano omologati stesso. Comunque Claudio, il mobico va al frequentimetro. Sì, ma sono pochi i baracchini che hanno il frequentimetro, capito? Quelli di nuova generazione o di vecchia sono pochi. Il mobico non si crede che è di vecchia generazione. Ma il mio registro è il canale, non ha frequentimetro di noi. Anche l'altro, il coso, come si chiama, il 3006, anche quello c'ha il canale, non ha frequentimetro. 40 canali senza frequentimetro. Comunque io ho sentito, vabbè, lasciamo perdere, no? Una frequenza, come se era in banda, senti un messaggio tipo, questo non è in AM o in banda? E poi si chiama in banda laterale. No, non li capivo benissimo, bene, però forse, non lo so Carlo, sicuramente non erano in banda, mi sentivo veramente un po' strani. Boh, non lo so, se non mi capita di sentirli. Di solito quando li senti strani o sono in FM, sono in banda laterale. Anzi, sono i baracchini omologati con le bande laterali, 40 canali. Quindi può darsi che era qualcuno in banda laterale, anche nel canale 40. Boh. Se supera i 40 canali non è più omologato. Tutto lì, il discorso è questo. Gappa. Ok. Boh, non lo so, ripeto. No, ieri c'era un po' di attività, me ne sono accorto, io sono entrato in ritardo ieri, ma ho visto un po' di cose strane. Anche ho sentito un po' di cose strane. Lo so, sì, già lo so, seguito anch'io. Seguito anche io. Vabbè, sono cose normalissime che io ho già detto. Fino a quando non si sincerano praticamente che tutto qui sta funzionando bene, stanno battendo qui. Poi si sposteranno da altre parti e allora torna la normalità qua, però bisogna stare sempre con gli occhi appesi. Allora, naturalmente io da parte mia non ho problemi, io sto utilizzando l'apparato monogasto, entro i limiti eccetera eccetera. Ma infatti non c'è problema per te, il problema già lo sanno chi ce l'ha. Caro Gianni Eddy mi deve andare, non c'è problema, non siamo certo noi a dirglielo. Addirittura ieri gli ho mandato l'integrazione del nuovo apparato, dell'ala 48, con il numero di matricola, così pure quello lì è tranquillo. Certo, bisogna fare le cose fatte bene, in regola, e vedrai che problemi non ne ha nessuno. E chi si rimette si assumerà la propria responsabilità, non certo me la devo assumere io per gli altri. Vero Mario? Ok. cappa di questo tipo? Io, microfono normale, tranquillo, pacifico, apparato omologato, e niente, e via, è trabagattato. Cappa cappa, ma io preferisco quell'altro, quello, come si chiama? Quello che esce bene di radio col microfono normale, non so che cosa sia, l'altro omologato, capito? 606? Quello mi sa che esce meglio, questo è graffiante la modulazione. Questo qui non è che è graffiante la palazzo, class. Questo qui è l'unico microfono che ho tenuto qui a casa perché senza non potevo rimanere. E gli altri li ho lasciati tutti quanti per pulirmeli e per mettermeli a posto, altrimenti non potevo chiacchierare per niente. Ma anche quello vuole messo a posto, anche quello c'ha il PTT e c'ha qualche problema sicuramente, capito? Kappa, adesso appena che me le dà all'altro, man mano che me le rende, li piazzo, ognuno nel suo apparato e via. Kappa, riprendi Luca, ma Gianni è sceso dalla macchina. Io poi sono la chitarra adesso, sto facendo un po' di... non so, Galli. L'unica peccaretta, comunque... Che ti fanno sentire, ma la sorte. Beh, ve l'ho detto, già ve ne accorgete. Quando mi giurano già ve ne accorgete. Il rumore lo conoscono tutti, capito? Gava. Voglio metti, Gaglia. Ma io non sono loro, dove andare. E vediamo già i miei figli. Vabbè, l'unica cosa che mi dispiace è che mi avevano già messo una volta nel mirino. Mi dispiace se mi ripigliano la seconda volta a rimettermi nel mirino, ma non perché ho paura di questo o di quello, è che sono spese inutili, capito? Cioè avvocati, per il tempo, quello, l'altro. Perché io, cioè, quello che mi ha restituito il tribunale, non è che abbia chissà che cosa, così che niente. Vabbè, niente cosa mi dica. Loro ti trovano, rifanno tutto a capo, poi, non so cosa dire, non so niente, non so. So solo che comunque qualcuno l'hanno già intercettato nella sua zona e qualcheduno anche qua nei paesi, capito? Kappa. No, perché, cioè, mi dispiace se si piange qualcuno che non c'entra, non c'è niente in questa storia qua, capito? Perché purtroppo molte volte si piange colui che non ha fatto niente. Solamente perché magari ce l'ha lì buttato e magari si piange e quello lì è magari nato di tutto, mentre che chi si mette a divertirsi magari, cioè noi non lo sappiamo, magari può essere anche un radiamatore che faccia queste cose per dispetto, perché intanto è una cosa un pochettino così, perché è come che io venga sotto casa tua con la macchina, mi metto a fare il coglione e quelli là pigliano il segnale dalla zona tua, capito? Non è che pigliano il segnale dalla zona di Picco Pallino, no, perché purtroppo magari è in quei paraggi lì che si è messo a fare il cretino, tutto lì. Mario, lo sanno quando sei fisso, quando sei mobile, non sanno il dito in bocca, vai tranquillo. Sì, ma quello che voglio dire io è, adesso per dire, metti caso che io mi fisso con qualcuno, viene sotto casa mia, si posizia con la macchina, io di notte mica vado a controllare, o di giorno mica vado a controllare chi è posteggiato sotto casa, metti che si mette a fare il cretino, loro vedono la zona. La macchina è ferma, giustamente, il segnale è fermo e possono pigliare per dire di mira a me. Mario, quella attrezzatura ha un raggio di 1 km e 500 metri, hai capito? Quindi non si mettono sotto casa tua, già lo sanno loro come mettersi. Quando sollevano, hanno un raggio di 1500 metri, capito? Quindi non ce n'è problema, se non si può vendere sotto il gas, stai tranquillo, si controllano la distanza. Sì, non mi sono spiegato forse qua, io sto facendo un paragone, che uno si metta sotto casa mia e si mette a fare il cretino, in quel momento magari staranno controllando me, io sto facendo dei paragoni, metti che questo qui si mette a fare l'imbecille, io magari non sono neanche in casa, perché magari sono a lavoro, quelli che fanno il rilievo segnalano la zona, capito? Da dove sta arrivando questo segnale? E dicono, questo qui arriva dalla zona per dire di Mario Master. E loro vengono a cercare a me, capito? Anche se io non ci sono. Infatti. Ehi, ma stanno facendo dei controlli incrociati e... Andiamo a vedere cosa... Se ne vogliono i bivi, non lo so. Oh Mario. Che non è neanche così, perché loro hanno delle attrezzature per controllare la modulazione, il segnale, le spurie del segnale, non è detto che se tu non se ne viene sotto casa tua devi essere per forza tu, perché loro controllano quel segnale e lo registrano, hanno delle attrezzature che registrano quel segnale e poi lo confrontano con l'attrezzatura tua, perché la stessa cosa li puoi dire tu, non lo sono stato io, anche se per dire sei stato tu, loro controllano la modulazione, il segnale, le spurie, eccetera, eccetera, no, chi te l'ha parato il duio e non puoi scappare. Ciao già, buona carica, buon tutto e pescotto ai gringhellini. Ciao. Ciao Gianni, ciao, ci sentiamo stasera se coincide. Vai Luca. Ciao tu già, ciao vaccinetto, ciao. Ciao Gianni, alla prossima. È così come ha detto Roberto comunque, Mario, è difficile che si sbaglino, capito? Loro prendono il tuo segnale, poi riprovano fino a quando si trovano parlando e riconfrontano il tuo segnale, lo costruiscono, lo fanno e io via, ce n'è lavoro, noi vicino. Kappa, no, ma io siccome giustamente in materia sono un po' ignorante, non è che sia chissà che cosa, e stavo temendo sia che sai com'è, molte volte hai gli sguisi con qualcheduno, gli vuoi fare un dispetto, andi sotto a casa sua, magari, e chissà cosa tutto ne viene fuori, capito? Perché il segnale, essendo fermo, dicono no, è da quella zona lì, capito? Io di questi affari che registrano spurie, quello e quell'altro, non me ne intendo. Aspettate un attimo. Personale occupato, ve ne siete accorti oppure dobbiamo farci sentire diversamente? Il canale è occupato, ve ne siete accorti oppure non ci sentite che stiamo parlando? Ancora lì, Fuga. Ma ti dice a casa Giulia. A voi. Allora, se c'è il casino, ce ne siamo noi. Thank you. se si accorgono che stiamo parlando, oppure se non si accorgono che stiamo parlando, perché è possibile che non si sentano che stiamo parlando, non lo so. Ci sentite? Sì, canale occupato, ci sentite? Pronto? Pronto? E c'è la moglie di lei pura. Pronto, pronto, ci sentite? Stiamo parlando? Canale 10 è occupato dalla città di Sassari. Ci sentite? Pronto, pronto, pronto, pronto, si parla? Ci sentite? Pronto? Sentite in difficoltà, non sentite il tuo amico? Pronto, pronto, pronto, pronto, c'è nessuno? Cucù? Scusa, ti sposti, non vuoi chiedere scusa, ti sposti ugualmente, finisci lì. e invece continuano e magari c'è anche delle parolacce. Io purtroppo non lo sentivo, dicendo, vedi, adesso per esempio Claudia, quello lì ci parlava sopra e via dicendo, metti che quello lì sia talmente che piccolo, io sto andando per le punti di me, il discorso è un po' cansi, che magari sappia, dice, adesso vado mi metto sotto casa di quello lì e così pigliano a lui per bravo in un caso, capito? O per Caffone, o per traslatore, o per cretino, come lo vuoi chiamare, lo chiami, capito? E dicono che è così. E poi magari giustamente vanno a rompere le scatole a uno che non c'entra, non c'è niente nella situazione che succede, capito? Sì, ma loro lo sanno, Mario, lo sanno, la roba è, insomma, non sono matti, come stava dicendo Claudio prima, lo sanno loro, se sta facendo un'antenna o sta facendo la casa o sta facendo la macchina, gli hanno bisogno di Marazzurri, non ha bisogno di, hanno le attrezzature giuste, capito? Speriamo che sia così, perlomeno io me lo auguro che sia così, che si accorgano chi è e chi non è e tutte quante queste belle cose, perché tu fai l'educato, Luca, sei lì tranquillo, solo perché magari hai detto una frase a qualcheduno di togliersi dal canale, oppure come a volte capita che sei pigliato da un discorso e gli dici che qui c'è una ruota e non lo fai entrare, possono succedere tanti disguidi, siamo in un mondo di radio, capito? E magari c'è quello che è dispettoso, che magari, capito, faccia di tutto pur per dire che è maleducato, magari tutto lì. Io sto andando per ipotesi e non vorrei che, per dire, tu magari non ci sei e qualcuno fa il cretino e poi esce quello e dice, è Luca, capito, e non va bene. Ma che ci cosa va lì, cara? Io qua, a te, Mario e Roberto, e passiamo sul 5. E ci mettiamo anche a Kennedy, poi vediamo come si comportano loro. Qua io stamattina sono entrato a salutare un amico, già l'hai visto, no? Che poi mi sono portato sul cane 10 con Mario, proprio perché voglio invitare di rompere le scatole, capito? Come c'è un sacco di amici lì, voglio invitare, stanno lavorando e voglio invitare, perché se mi metto a parlare io sul 5, erogando tutta la potenza delle mie apparecchiature, allora qualcuno prende colpi forti e non parla davvero. Ma siccome voglio invitare, perché tutti devono lavorare e hanno diritto a lavorare, anche se è un canale di porcaccioni, di maleducati, a me non me ne ha fatti nulla, ognuno si assume la propria responsabilità. Se tutti ascolti in un canale, vedi che stanno parlando, sì, educato almeno, no? Nessuno ti ha parlato male, gli ho detto solo che il canale è occupato, se mi sentivano. Sicuramente si sono abituati a farli da uscisci a casa sua, a Buru. E allora evidentemente era fastidio, capito? Tutto lì. Comunque non me ne frega niente. Fastidio a me non me ne danno, sono io che do fastidio a loro. Riprendi, Romè. Cazzo da fare meglio delle vite, ma l'hanno capito adesso, è forzato. Quello dell'altro giorno era un grande maleducato, ma proprio non c'entrava niente con la discussione, stavamo parlando per conto nostro, io, Gianni e non mi ricordo chi. ma proprio il centro metà è stata direttamente di quelle parolacce della metà erano troppe. Allora Turizzo non è che abbia detto niente di gravissimo, maleducato ma niente di gravissimo, ma quella era proprio, vieni no che ti spacco la faccia, vieni da Ciappu, Sassarese Marco, eccetera, eccetera. Poi quando però gli ho detto se ce la voleva prendere assieme a me un bicchiere di birra, capito? Così gli era mettere in un altro posto la birra, e il parito non sente giù più, capito? Perché poi quando trovano una persona in verticale, diciamo tu sì, io gioco, ma cosa? Perché nascondersi dietro un microfono, non sai mai con chi hai a che fare, capito? Non li compresi, cioè, c'è un QCO, stiamo parlando tranquillamente, lo sanno che il canale 10 è occupato dalla ruota di Sassari che parliamo noi, senza andare a rompere molto le scatole. No, con base una forza, ci portano da Rosinco, Rovesi, e ci vuole a fare da fare fatti giù, capito? Non è neanche educato nei confronti della gente. Comunque vabbè, non è successo niente. Se l'ha capito, l'ha capito, se no la facciamo capire di nuovo, non c'è problema. Avanti, Max. Tanto a essere maleducati io credo che non serve a nessuno, sarà solamente poi addettato come per dire che tu sei un grande maleducato perché rispondi in determinati modi, tutto lì, perché poi magari può capitare, perché oddio, su questo mondo non possiamo mai dire che non possa mai succedere, perché prima o poi ti trovi un bar, ma tu sei quello che dici tante parolacce, oppure sei quello che offende le persone che non ti cercano, così. E magari c'è di darlo un buon indirizzo. È vero, tutto può succedere. È vero, la scaletta va. E noi che ce la chiacchieriamo, ce la ridiamo per passare 10 minuti e poi succede sempre quello che ti mette il guastafeste, diciamo. Ehi, stamattina mi sono dimenticato di farlo raccontare a Mario, è entrato Mario Bobo Natale, a Luca, ho detto che c'è uno, una voce. A vedere, si è serrato tra Carugamio, si è serrato. Si apre un gamio, mi sacca lo gordo, mi sacca Mario, capito? È molto pericoloso perché dietro il microfono ci può essere una persona seria, è brava, ma ci può essere anche un delinquente che ha bisogno di ripassare un'oretta tranquilla, capito? E sono 2 ore da voi e poi c'erano dolori, perciò bisogna stare sempre senza nessun problema, tranquilli e sereni, capito? Tutto lì è, dovunque, non fa niente. La maleducazione è di chi la va, non di chi la riceve, quindi. Campa di positivo, così è. No, ma ne sono tanti. No, io avevo assistito pure a una cena molto tempo addietro, il fratello di Luca, che stava scherzando con noi, questo qui si è intromesso e si è messo direttamente a parolare. E gli ha detto, non ti devi manco muovere, vengo io a cercarti. Se ne stai sempre di poco, non capo di così di pesci. No, più fare danno, è sparito, ha attaccato tu, sei sparito. Vabbè, è perché così poi, capito, quando si trovano faccia a faccia sono sempre cagone. Ma ti sciocca il gomito. Vai Luca, riprendi. Vai Gaia, per carità. Allora ma che mi pare domani, ti riusi Stefano, non timmi, no, nessuno, mi ha fottuto adesso. Siamo bravati a mano, mi ha bravati diversamente. KK, e vabbè. E comunque ce n'erano anni fa, c'erano molti gente nei canali, cavolo, rompevano le scatole, si nascondevano dietro il microfono. E niente, poi non dici dove sei, chi ti vai, non lungo mai, non è in chibi. Allora, cioè, lei non lo fa nessuno, ma entra uno di la parolacci, tu dici dimmi dove sei, ma dici sono al monte, tu fai la monte e non la ciappi, non te lo dicono mai. Ehi, qualche volta ce l'ho trovato, io non c'è problema. Soprattutto c'era Terriuse, ma io non ho più problemi, capito? Dunque di nessun genere, sono bravissimo, molto tranquillo, però non mi bisciare i gatti, perché se no non timo né a te né a te, ma a te, hai compreso? Non ho mai avuto problemi con nessuno io. Quando mi hanno provocato sono sempre andato e ho fatto il mio dovere da uomo, capito? Qualcuno già pizzichevamo anni fa, ma era sempre così come stai dicendo tu, capito? Ma è divisa una zona invece non era anch'io. Invece quello con Mario proprio l'abbiamo, eravamo qua a casa, stavamo ascoltando, perché Mario mi stava facendo un microfono. E questo prima stava parlando male e finita lì. Poi l'abbiamo risentito col collega e ci mi sto fermando qui in via d'Italia. Meno mi aiuto. Andiamo a vedere com'è la situazione. Non so che si trova Mario Gurnocci, ma io lo conosco molto bene. Capito? E due voci di Gianni, non una persona del genere. Quindi. Dove sarà? C'è ferra, io, a futti. No, no, ma lo devi dire. Ah, non è sul bobo di Barolacci, no, io. Siamo usciti. Oh yeah. Brata Rogamio si è salvato, che se ne va la Rogamio, cucù. Dai, ci romagna, vabbè. C'è solo un bel comunque, è claro, c'è solo un bel. C'è una parolaccia, c'è la tua moglie, tua madre, la guida, che d'altro. Però fanno sempre magari. La fanno per divertirsi, non per altro. Perché sono gente miserabile quella. È gente miserabile. E non ci vuoi fare. L'unica è ascoltarlo, poi vedremo la prossima volta. Magari c'è l'appuntamento, sa che lui vai, molto molto esci, ti ricordi che sono cari amici che sono bisogni. E lui ci ha fatto male, perché ti pensano che sembrava un canguro, mica altro mio gami, era un, mi pare un 190-36, ha avuto un brinco a destra la cabina, forse automatico, tu ma sei salato dentro, lui ha detto scendi. Scendi che ti faccio vedere la cosa lì, scendi a terra. Domani mi farà da un gas. Domani, ma poi sei morto e fattuto, caro mio, manco l'aria ha carregato. Ha bisogno che ha frenato, manco frenato a Rogame, perché era senza aria. Brutta ce l'ha vista quella. Molto, molto brutta, capito? Molto, molto brutta. E purtroppo è così, caro mio, è così. Vabbè. Lasciamo le palle, ce la fanno peggio. No, ma mi voglio collegare al discorso di Luca dell'altra volta, ti ricordi, no? Che fanno molto i sapientoni e poi invece sono sempre loro che attaccano brighe con la gente. Capito? Perché la verità è sempre quella. Anche intanto gli amici che guidano ogni giorno 50 battenti che sono facendo i giri e Luca. Lo 50 battenti sono tutti alcolizzati, capito? Quindi basta una data di vino e diventano tutti vostri, poi quando li trovi di persona è cominciato a fare la capriola. Infatti, comunque ce ne sono belli in gamba, tipo Gianni, poi c'è Paoletto, poi c'è, insomma, ce ne sono belli, ma ce ne sono belli figli di buona mamma, insomma. Tipo l'altra volta sono senza un Gavino, sicuramente è una persona grande, e dicevo spegni il baracchino, non si vede, bisogna ma spegnilo, spegnilo, e poi sei incazzato, poi diventa la fine. Gavri, guarda che sto scherzando, non lo conosco, cioè non è che, ma sto scherzando, non sapevo già qua. Come sta lì, ma non l'ha civile, poi ho detto, Gavri, io sono Luca, non so, però a me non fanno così, mi incazzo, mi dice rompono, cazzo, mi sono incazzato. Ma Gavino quello di Sanna? Non so, quello c'è la voce un po' così, no, è fino. Già è lui, già è lui. Il suo è presidente, beh, con Rondoni. Scappa. Con Sanna lavora, quello è lo zio di mio nipote praticamente, è il fratello della suocera di mio nipote, figlia di mia sorella, si conosceva molto bene, lavora con Sanna tra tutti, beh, almeno la facciamo in gamba, però, ma è giusto, Pruvicio è spesso madura, molto molto madura, quindi bisogna stare sempre attenti. Anche la gente anziana, un ragazzo, non lo sai mai con chi è che fa. Poi sei il più bravo del mondo, però è sempre un discorso di uno quando tu le manchi di rispetto, allora perde l'orientamento, capito? E diventa pericoloso, molto pericoloso, parecchio. come già raccontato quello di Cagliari, capito? Non ve l'ha fatta con le mani, l'ha tentato e l'ha avuto quattro proiettili, non si può fare una cosa del genere per la radio. In radio dobbiamo essere tutti uguali, tutti amici e rispettarci uno con l'altro. Se poi c'è quello maleducato che non ti rispetta, allora lo eviti e lo lasci da una parte, capito? Anche se non ne muovi bene, se ti metti a fare, se ti metti alla pariciuola, non ne togli i piedi, vero Roberto? Se glielo vedo, mi devo stare attenti. Poi il bello della radio è che non ti vedi. Ti cazzo della televisione, lo vedi in faccia e sai come interveniva. In radio uno guarda il burro bravo bravo di tonalità, poi quando lo vede dall'albero magari è un animale. Ma ce n'è di quelli, ce n'è di quelli. Anni fa, Mario lo sa, noi avevamo un carissimo amico che parlava alla radio. Che parlava alla radio, ma bene, educato, tu lo sentivi con tanto di educazione, eppure era un latitante, te lo ricordi Mario? A Giovanni Chinova? Quello era un latitante, quello è una persona con le cose sotto, hai capito? Quello era un latitante, e quello non è che aveva paura di venire a spaccarti la testa, cosa voglia la bici? Va via del gattolo, cosa ne ha puttia di... o un morso o tre morsi, per cui bisogna andarci cauti sempre. E ti dico, guarda, che era veramente una brava persona. Lui arrivava da tutte le parti, tutti lo sentivano, però nessuno sapeva dove trasmetteva. Capito? Non sapeva nessuno dove trasmetteva. Solo persone fidate che andavano da lui a portarle a mangiare, a portarle tutto, però nessuno mai sapeva dove era e mai nessuno si è permesso di dire né dove era né dove non era. Solo noi dei KCB sapevamo chi era e chi non era, capito? Però era una persona veramente, veramente corretta, educata, però sai, è sempre una persona che non ha niente da perdere, quindi tanto di cappello, buongiorno e buonasera, e ognuno con la sua strada. Papà. Oh, qua, cambiamo discorso, è quel numero di telefono che hai fatto l'altro giorno, che ti ha risposto un altro, l'hai riprovato a fare? Sì, sì, sempre questo signore mi risponde, alla fine mi ha detto che si cambiava, si faceva cambiare il numero, si faceva cambiare il numero perché lui non voleva problemi. Ah, quello è un numero clonato sicuramente, capito? È un numero che ne bigliato con C ed è capitato quello di quell'uomo, ce ne sono tanti di numeri che fanno, capito? Eppure tu ci avevi parlato tempo prima con quello lì, con quel numero. Con quel numero lui mi ha chiamato, io me l'ho registrato in un pezzo di carta, non me l'ho memorizzato, perché mi ha detto, guarda, mi ha chiamato e mi ha detto, segnati questo numero di lettera di vettura, di spedizione. E io me l'ho segnato. Mi ha detto, quando poi ti arriva la merce mi chiami a questo numero. Normale, proprio. Sono degli attori, capito? E io ieri ho chiamato per dire, guarda che ancora non mi è arrivato niente. E invece mi ha riposto visto, no, ma è tu io, guardi io non gli ho mandato nessuna lettera di vettura, non ho spedito niente, non so neanche di cosa sta parlando. Io mi ha detto che ho 60 anni, questo telefonino me l'hanno regalato i miei figli per il 60° compleanno e ce l'ho, guardi, non le dico molto, una settimana 10 giorni, quindi immagina già di lui. Figurati dove sono arrivati. Se risolvono quelle persone là, risolvono, se no pazienza, è vero, perché purtroppo a quello che si è sentito un po' in giro, così un po' da uno, un po' dall'altro, sembra che sia una specie di organizzazione che smercia tutta roba che ti brisi, oppure ritirata tramite quelle persone che hai nominato tu, che pigliavano, trovavano, mettevano da una parte e adesso stanno cercando di sbolognarla così. Vabbè Mario, comunque già va bene così. Ciao vabbè, ci sentiamo dai, anch'io vi saluto, vado un po' a riposarmi, così non... non mi adido né niente, ma ne vado un po' a riposarmi, ci sentiamo stanotte, stasera, se coincide, dai. Ciao Luca, Mario, Roberto, chiunque fosse l'ascolto, passo in QRT, ci sentiamo stasera, ciao a tutti, riprendi Luca. Ehi, anch'io, Nanna Magnava, sentiamo stasera, ciao Mario, ciao Roberto, ciao Claudio, stasera, ciao. Ciao, ciao Luca, ciao Mario, ciao. Ciao Cla, buonasera, buon riposo, e ci ascoltiamo alle prossime. Ciao Roberto, buon lavoro anche a te, e ci risentiamo. Ciao Luca, stasera se coinciderà, che anche io adesso è venuta l'ora dei pavesini. Ciao, ciao. Ciao Mario, ciao stasera, ciao.